intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Avete ormai capito che in questa trasmissione si cerca di descrivere i tanti modi in cui si esprime l'intelligenza artificiale e si fanno confronti con quella animale. Di quell'animale facciamo ovviamente parte anche noi, ma ormai bastano 2 settimane su Facebook e una 30ina di video nei quali si vedono giraffe che lavorano l'uncinetto, facoceri che cucinano zuppe di pesce e capiamo tutti che l'intelligenza animale è vasta. Comunque faremo essenzialmente riferimento agli umani. Quello che incontriamo spesso in questo viaggio è il tema delle prestazioni verticali, potremmo definirle così. Che cosa significa questa cosa? Significa che una modalità importante per valutare l'intelligenza artificiale, non l'unica, attenzione, perché questo tema ha tante facce diverse, non c'è un punto di vista unico. Una modalità importante allora per valutare l'intelligenza artificiale è quella di analizzare le prestazioni molto mirate. In una sala operatoria, per esempio, sì, questo è un caso, quello della chirurgia robotica, nella quale il chirurgo e il suo robot formano un duo di grande successo. Il dottor Kumazie Colon con la K, il suo robot assistente, si leggerà nei prossimi anni sui siti internet delle cliniche per promuovere i propri servizi terapeutici. All'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Gastone Ciuti fa ricerca sui robot per la chirurgia. Ma in generale, che cos'è la chirurgia robotica? L'obiettivo principale della chirurgia robotica è quello appunto di sviluppare, di realizzare e di dare, diciamo, al chirurgo dei robot, degli ausili, degli strumenti che possono aiutarlo a migliorare tutte le fasi, diciamo, relative a un iter medico, che quindi riguardano la diagnostica e direttamente anche la terapia, l'azione diretta verso appunto la patologia, la malattia stessa. Per esempio, il chirurgo sta tagliando in un certo punto, magari in un intervento al cervello, sono interventi molto lunghi, il robot come può dargli una mano? Il robot può aiutarlo stabilizzando, diciamo, gli strumenti che userebbe normalmente, quindi un bisturi oppure un elemento per tagliare, per aprirsi un varco verso l'organo da trattare. Il robot può essere uno stabilizzatore, può essere una guida, può essere un navigatore, può essere uno strumento che prende la mano del chirurgo e la porta verso il sito di interesse e magari la porta anche in maniera molto più accurata, molto più ripetibile e sulla base di una pianificazione preoperatoria dell'intervento. Il robot conosce come operare sul paziente specifico. Stabilizzazione vuol dire che si parte dall'idea molto umana che dopo 4 ore di intervento la mano del chirurgo possa avere delle vibrazioni dovute all'affaticamento. Il robot può essere un elemento che stabilizza ad esempio il gesto chirurgico, rendendo, diciamo, l'operazione vera e propria più ergonomica, più diciamo confortevole per il medico stesso, e questo si ripercuote in una migliore, diciamo, terapia sul paziente stesso, magari anche con un minor trauma, tempi inferiori di operazione. Possiamo anche dire infine che il chirurgo è una persona con tutta la sua complessità, la sua storia, il suo vissuto, e quindi mette un carico emotivo generale dentro l'intervento. È ovvio che si affatica anche mentalmente, no? Allora, siccome in queste trasmissioni ci interroghiamo sul senso della definizione di intelligenza, qui paradossalmente potremmo dire che l'intelligenza complessiva dell'umano, che appunto svolge una funzione particolare ma si affatica, può avere pensieri per la testa, può avere dei momenti in cui si guarda intorno e vede anche colleghi che fanno altre cose in una sala operatoria, è quasi un fattore che può creare degli svantaggi. Sì, esatto, che poi l'intelligenza artificiale non è nient'altro che la capacità del robot stesso di adattarsi a determinate situazioni che sono magari non visibili, non immediate per un'opera da parte del medico stesso, perché può essere appunto affaticato, può avere un carico cognitivo importante. Il robot è in qualche modo sempre attento, però naturalmente è un robot che necessita della supervisione degli operatori, del medico e di tutto lo staff in sala chirurgica. È un semplicione, ma che fa il suo lavoro. Esatto, che fa il suo lavoro. Capite come stanno le cose? Siamo nel mondo della specializzazione. E del resto è la stessa cosa per noi. Vi è capitato di vedere quei gruppi di ginnasti cinesi? Fanno cose incredibili, no? Però si esercitano 10 ore al giorno, non fanno altro. Un'attività nella quale le macchine e il software abbinato stanno diventando bravissimi è il riconoscimento di facce e oggetti. Qualche tempo fa stavo vedendo un video con Mattia De Rosa, product manager della Microsoft, un video su un loro programma di riconoscimento persone e oggetti in un ambiente di lavoro. Adesso nel filmato, nel video, vediamo un ambiente di lavoro. C'è una ragazza con il suo caschetto che prende un martello pneumatico e lo sposta di 50 centimetri. Poi che cosa vediamo? Vediamo che entra un'altra persona che in realtà non è stata riconosciuta dal sistema e non è registrata e quindi non è autorizzata ad utilizzare degli strumenti potenzialmente pericolosi. In quel caso, non appena utilizza uno di questi strumenti, il martello pneumatico nella fattispecie, il sistema genera un allarme dicendo che c'è qualcuno che sta facendo qualcosa che potrebbe essere pericoloso e quindi bisogna intervenire per risolvere quella situazione. E se quella persona avesse messo un oggetto estraneo a quell'ambiente di lavoro, uguale? Assolutamente sì, il sistema è pensato per riconoscere tutta una serie di oggetti e per esempio il sistema potrebbe dire che un oggetto che lui conosce è stato lasciato in un posto dove non deve stare, oppure che un oggetto che lui non conosce è entrato nella scena e quindi che qualcuno deve dirgli che cos'è quell'oggetto, se è lecito che stia lì e se è sicuro che stia lì. Cioè può anche esprimere dei dubbi, forse potrebbe anche andar bene? Assolutamente sì, può essere istruito, potrebbe non riconoscere gli oggetti in tutte le posizioni, quindi potrebbe dire secondo me mi sembra che sia questo tipo di oggetto, non ho delle regole restrittive particolari, per te va bene che stia lì? Se l'operatore dice sì, lui impara quella diciamo, situazione e da quel momento in poi se si ripete non genererà più un allarme, invece se si ripetono delle cose che lui non sa interpretare, nel dubbio chiederà che qualcuno intervenga. Senta, le chiedo una cosa in generale. Questi sistemi, e qui andiamo sul riconoscimento facciale, la persona, come si deve interagire con loro? Mi sto facendo una domanda, una bella signora che ha dei lunghi capelli rossi e li tiene su, poi una mattina se li tira giù tutti e il sistema non la riconosce più? Allora, no, probabilmente se è fatto bene il sistema la riconosce anche con i capelli tirati giù. Allora, questi sistemi non è che fanno un'identità, controllano se c'è una fotocopia di quello che io ho memorizzato, ma in realtà vengono istruiti per riconoscere delle caratteristiche principali degli oggetti, delle persone, e queste caratteristiche diciamo tipicamente resistono a delle variazioni tipo che cambio il colore dei capelli, li pettino diversamente o mi trucco diversamente. Perché anche una barba? Anche una barba. Capisco, a volte gli occhiali possono indurre delle difficoltà, quindi per esempio in questi casi i sistemi cosa fanno? Esprimono un grado di confidenza, quindi dicono ho riconosciuto Mattia ma non sono sicuro al 100%, sono sicuro al 65%, quindi chi programma, chi utilizza quell'informazione decide qual è la soglia, il livello minimo di confidenza che l'algoritmo deve avere e se non raggiungo quella soglia deve mettere in atto delle procedure per aumentare il livello di sicurezza, no? A seconda delle applicazioni, magari appunto situazioni nel quali il livello di sicurezza deve essere veramente molto alto, allora il sistema può diventare rigidissimo. Arriviamo a dei livelli in cui non sono sufficienti le telecamere tradizionali che abbiamo, ma servono degli oggetti che sono in grado di riprendere delle diciamo, caratteristiche biometriche delle persone. In quel caso le tecnologie diventano specialistiche, i software diventano validi anche dal punto di vista legale e noi abbiamo delle applicazioni in cui il software è in grado di distinguere fra di loro due gemelli omozigoti, che non è una cosa molto semplice, però devo avere degli strumenti che prendono delle caratteristiche molto puntuali. Pensateci bene, due gemelli identici monozigoti, capita che a un paio di metri non li riconoscono nemmeno i genitori, forse anche meno. Alla prossima e buona intelligenza a tutti.